uno mi della mislexa te sei se mi je garota uno mi della mislexa te sei se mi je garota ela non consegue. Yeah.